Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. I saldi estivi hanno preso il via sabato scorso in quasi tutte le regioni italiane, dureranno fino a metà agosto. Avete partecipato anche voi comprando qualcosa o semplicemente facendo un giro per negozi? Oggi vorremmo raccogliere le vostre impressioni sull'offerta, sui prezzi che avete trovato, ma anche sulla presenza dei clienti. Purtroppo i primi dati non parlano di una risposta molto incoraggiante. La crisi, lo sappiamo, si fa sentire, gli italiani limitano i budget su tutti i fronti. Pare che non spenderanno più di 100 euro a testa in questa tornata appunto di sconti stagionali. Salva Danaio però non rinuncia a darvi, come di consueto, i consigli utili per evitare disavventure anche in questa fase, scegliere di fare i vostri acquisti in sicurezza, preferendo, è giusto che sia così, tanti commercianti rispettosi di tutte le regole. Intanto, per affrontare la crisi, commenteremo stamattina anche questa notizia, sembra che molti negozi, lo leggevo in questi giorni sulle cronache di Milano, rinunceranno anche alla loro chiusura estiva, vetrine aperte anche ad agosto per poter magari così seguire i turisti che frequenteranno, speriamo, anche le più grandi città italiane. E però, insomma, la crisi morde e si fa sentire e produce anche questa conseguenza. Allora, saldi di luglio, come sta andando? Cosa avete comprato? 800 24 00 24, il numero verde per raccogliere le vostre testimonianze se volete intervenire in diretta, oppure scriveteci al 349 238 6666, all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, su Facebook al profilo Salvadanaio Radio 24, su Twitter @salvadanaio24. Con noi stamattina Carlo Massoletti, vicepresidente di Federmoda di Confcommercio, oltre che presidente di Confcommercio Brescia. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua e buongiorno anche e benvenuta all'avvocato Dalila Loiacono, legale del Movimento Difesa del Cittadino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Questa associazione dei consumatori anche quest'anno ha organizzato una iniziativa ormai consueta e tradizionale, che è lo sportello saldi, e ci faremo raccontare dall'avvocato Loiacono che segnalazioni sono state raccolte. Prima di tutto questo però, un punto di osservazione naturalmente sui mercati. Vediamo che succede. Allora, la borsa stamattina era partita molto bene, tutti gli indici erano in rialzo di oltre un punto percentuale. Adesso molte borse stanno mantenendo il segno più, Francoforte continua a guadagnare un punto, Parigi più 0,7, Londra più 0,7, Milano invece ha ridotto in maniera consistente il suo progresso registrato appunto sin da questa mattina. Adesso il FTSE MIB è a più 0,10%. Qualcuno attribuisce la colpa a questo andamento all'esito delle aste dei titoli di Stato di poco fa, che a noi non erano sembrate poi tanto male. Il Tesoro, di tutte le scadenze che aveva in programma, ha collocato un importo inferiore rispetto a quello che si era prefissato, ma il Tesoro mediamente lo fa quando magari così nota che i tassi sul mercato richiesti dagli investitori non sono soddisfacenti, colloca un po' meno, magari è stata una scelta strategica. Vedremo oggi cosa dicono tutti gli operatori. Di fatto 3 miliardi e 385 milioni di BTP triennali, tassi in calo su questa scadenza al 2,33% dal 2,38% dell'asta precedente. Per il BTP trentennale invece il tasso medio pagato agli investitori è stato del 5,19%, in lieve rialzo rispetto all'asta precedente più 0,2% circa, quindi era leggermente sotto il 5% il rendimento dell'ultima asta, 1,5 miliardi in questo caso collocato. Assegnati anche 1,5 miliardi di CCT, scadenza novembre 2018, il rendimento medio di questo titolo è stato del 2,68%. Vediamo i migliori titoli di Piazza Affari: nella Popolare di Milano più 2, Mediaset più 1,84, Saipem ed Eni in rialzo di un punto, Prysmian più 1, Terna più 0,6%, i cali più forti su Enel Green Power meno 1,43, Pirelli meno 1,29%, Mediolanum meno 1,13, ribasso di un punto per Exor ed STM. Euro su dollaro a 1,30,46, l'euro ha recuperato parecchio sul dollaro da ieri, e poi lo spread fra BTP e Bund stamattina che è partito intorno ai 264 punti base. Direi che per la borsa possiamo lasciare a questo punto il nostro commento, andiamo al tema di oggi, andiamo naturalmente ai saldi. Si annuncia sottotono, e forse non stupisce neanche tanto, la stagione dei saldi estivi 2013. Partiti lo scorso fine settimana nella maggior parte delle regioni italiane, Campania e Basilicata avevano anticipato, dando il via già il 2 luglio, dureranno in tutto 45 giorni. Le notizie arrivate all'indomani del primo weekend non hanno parlato, va detto, di lunghe file e di spintoni di fronte alle vetrine. Ma c'è ancora tempo per recuperare, anche se i commercianti non possono essere molto ottimisti, in un periodo che vede, si sa, le famiglie italiane costrette a ridurre i propri budget di spesa e definire con molta attenzione le loro priorità. A patire di più gli esercizi situati nelle zone meno turistiche, dove non si può contare sul contributo degli stranieri e di chi può permettersi una vacanza. Dovrebbero resistere le boutique delle grandi marche, mentre i piccoli negozi temono di più. L'ufficio studi di Confcommercio stima che le famiglie pensano di spendere in media meno di 100 euro a componente. Proprio per questo, però, non va dimenticato che i saldi sono l'occasione per fare il pieno di ciò che serve e che comunque andrebbe comprato, con sconti che potranno superare il 40%. 800 24 00 24, il numero verde per voi ascoltatori per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ne stanno già arrivando, ci sono già arrivate invece due mail. La prima è quella di Lorenzo, che ci scrive: ho comprato scarpe da corsa di ottima qualità ad un prezzo accessibile, ho aspettato il momento giusto per l'acquisto, sono soddisfatto, e poi conclude: carpe diem. Buona giornata Lorenzo anche a lei. E poi un'altra avventura un po' più articolata, questa aspetto a leggerla, di una mamma che ci scrive, che si chiama Ilenia, e chiaramente in questo periodo ne approfitta per rinfrescare il guardaroba dei bambini che crescono a vista d'occhio e quindi hanno bisogno di rinfrescarlo, aggiornarlo più frequentemente magari di noi adulti. Allora, Carlo Massoletti, vicepresidente Federmoda Confcommercio, ancora buongiorno. Come stanno andando le cose? Gli affari vanno come nelle previsioni? Non troppo bene? Sì, direi che sono in linea assolutamente con le previsioni, che non erano certamente rose in relazione al fatto che comunque questa contrazione dei consumi che si abbatte sul settore è una contrazione che pesa anche sul periodo dei saldi. Perciò direi che il primo weekend, sulle prime stime, è stato chiuso sulla base nazionale con un calo del 4%, 4,09 per la precisione, che poi questo calo è stato si è definito su base invece regionale per la Lombardia leggermente, in misura leggermente inferiore a un 2,65. Senta, è vero che quest'anno i commercianti, chiaramente per poter piazzare un po' meglio la merce, sono andati subito sul drastico e stanno praticando degli sconti molto più alti del passato? In media che per gli sconti stagionali ci aspettiamo dei ribassi sulla merce intorno al 30%, magari il 40% in circostanze eccezionali. È vero che quest'anno si sta vedendo molto meno 70% in molti posti? Ma no, direi che questo più o meno è l'andamento usuale, ci sono soprattutto delle imprese, quelle un pochettino più marginali, che su quelle che si trovano maggiori difficoltà, che evidentemente pur di realizzare qualcosa praticano degli sconti decisamente superiori, però non vedo questa grande differenza rispetto al passato. Direi che si possono suddividere in due fasi: la prima fase, che è la fase iniziale in cui gli sconti medi si aggirano al 30-40%, e una seconda fase che partirà tra qualche giorno, che sarà quella del repulito finale, e con i sconti che si gireranno dal 50 al 60%. Certo, anche perché poi le vetrine bisognerà ricomporle per far posto agli articoli autunnali ed invernali, per cui chiaramente i negozi devono essere sgombrati un po' velocemente, quindi anche per questo motivo poi gli sconti sono un po' più generosi. Certo. Dalila Loiacono, avvocato Loiacono, Movimento Difesa del Cittadino. Il Movimento Difesa del Cittadino, come dicevo appunto, ogni anno, infatti li ospitiamo spesso, predispone questo sportello Pronto Saldi 2013. C'è una mail alla quale ci si può rivolgere qualora ci si si incappi in una disavventura con un commerciante, oppure anche un numero di telefono. Le chiedo però se, proprio in virtù della crisi che stiamo attraversando, anche lo sportello Pronto Saldi è un po' meno preso d'assalto dai vostri consumatori, dai vostri associati. Sì, allora, il nostro sportello è sempre il Movimento Difesa del Cittadino, Pronto Saldi 2013, offre consulenza tramite esperti. Si può scrivere un'email sia info@mdc.it oppure chiamare direttamente al numero 06 488 1891. Diciamo che quest'anno sicuramente ha preso molto meno d'assalto. Nelle sicuramente le problematiche, però continuando a insistere, qualche commerciante furbetto ancora si rileva, ci sono pervenute diverse segnalazioni, diciamo che però rispetto agli anni scorsi c'è un consumo molto più consapevole, molto più ragionevole rispetto anche a quelle che sono naturalmente il momento storico, quindi le problematiche che naturalmente tutti sono note a ben tutti. Ecco, questo da una parte ci fa piacere, adesso non perché voi lavoriate meno naturalmente, ma se appunto ci sono meno segnalazioni, meno denunce da fare, evidentemente che c'è una maggior presa di coscienza fra i consumatori sul momento giusto in cui fare gli acquisti. Se si è in crisi, chiaramente è chiaro che si approfitta consapevolmente del momento dei saldi, e anche i commercianti insomma non ci danno modo e non ci obbligano a segnalare anche comportamenti non proprio chiari, anche se ce n'è uno appunto che una mamma ci segnala. Adesso leggerò questo caso e quindi lo commenteremo anche con i nostri appunto ospiti, però in ogni caso anche quelle poche segnalazioni che vi arrivano, avvocato Lo Iacono, che tenore hanno, che cosa lamentano i consumatori in questa fase? Allora, la problematica è che molto spesso ci arrivano segnalazioni con prodotti che naturalmente non rispecchiano quello che è l'effettivo saldo che deve comunque è previsto, non so, ma magari proprio uno ci è arrivata di una segnalazione di un prodotto che prima dei saldi costava 50 euro, dopo i saldi con una scontistica il prodotto era comunque venduto a 40 euro, insomma, capiamo bene che non possiamo scrivere poi una percentuale se poi in realtà non viene applicata, perché in realtà insomma le problematiche rimangono un po' sempre le più frequenti. Altri casi che ci accadono, molto spesso vengono vendute collezioni insomma piuttosto attempate anche di diversi anni, e i commercianti sì, continuano ad applicare i prezzi del prodotto che veniva venduto all'epoca, quindi insomma con una scontistica che diciamo è quantomeno bizzarra. Certo, ecco, non perché noi contestiamo il fatto che naturalmente vengano tirati fuori articoli che non sono esattamente di stagione, ma magari il tema è sempre quello, dottor Massoletti, che il commerciante lo metta bene esposto, l'origine diciamo di questo prodotto, quindi che siano magari separati da, come dire, i prodotti di stagione più recenti e che sono oggetto proprio del saldo stagionale. Ma guardi, ecco, io devo dire che i consumatori sono piuttosto preparati e difficilmente cascano nel tranello di una collezione vecchia spacciata per nuova. Direi che questo il consumatore lo sa perfettamente, riesce a capire perfettamente, diciamo così, di che cosa si tratta. C'è da dire che però non si tratta di medicine o prodotti alimentari, perciò non hanno una scadenza di per se stesse. Ecco, una giacca blu è una giacca blu, ecco, non cambia molto, certo. Se è una giacca blu del 2013 o 2012 o 2011, pertanto da questo punto di vista per un uomo magari, Massoletti, sai, per noi donne magari, certo, che ne so, quelle con le spalline degli anni 80 non ci piacciono più perché adesso vanno di moda un pochino più strette sulla vita, un po' più sciancratine le chiamo io, per cui per un uomo forse questa regola può valere, ma la donna magari se ne accorge. Infatti per il prodotto classico questo evidentemente non fa nessuna differenza, per il prodotto moda li assicuro che le consumatrici e i consumatori sono preparatissimi molto più spesso che dei negozianti che mettono in offerta questi prodotti e che poi magari fanno proprio brutta figura perché espongono prodotti vecchi spacciandoli per nuovi. Teniamo conto del fatto comunque che la legge non vieta di esporre, esatto, prodotti vecchi. L'importante evidentemente farlo con estrema trasparenza e con la dovuta, diciamo così, informazione verso i consumatori. Allora intanto leggiamo qualche messaggio di qualche ascoltatore, salutiamo Paolo con affetto che ci racconta 500 euro di libri intanto, quindi evidentemente figli che vanno a scuola, tasse, bollo auto, assicurazione per i saldi, non resta nulla, Paolo, ma guardi, l'importante è che intanto abbiamo avuto le risorse per coprire tutto il resto, perché qua c'è qualche famiglia che non riesce neanche a fare quello. Roberto invece ci scrive, ha fatto una scelta molto più drastica: io per i saldi ho deciso di farmi risolare le scarpe con una spesa di 80 euro, però anche il calzolaio non è che a buon mercato e ora non ho più niente da spendere, appunto per cui ha fatto questa scelta di non comprare una calzatura nuova ma di conservare quella vecchia. E anche un altro ascoltatore: niente ferie, niente saldi, soldi finiti. E allora, avvocato Lo Iacono, andiamo a qualche regola per così approcciare bene a questo momento. Intanto, nei consigli appunto che diramate con il vostro sportello Pronto Saldi, che per la verità sono anche abbastanza simili a quelli che elargiscono le organizzazioni del commercio, però ribadiamoli. Intanto, per esempio, per quello che riguarda il pagamento, molti negozianti dicono che nel momento dei saldi i prodotti non si possono pagare né con bancomat né con carta di credito. Sono pochi i negozianti che lo fanno, però qualcuno un pochino ci prova. No, allora, c'è da precisare, nei negozi che espongono in vetrina l'adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare questa forma di pagamento, anche per i saldi, e senza naturalmente oneri aggiuntivi, quindi non è vero che non è possibile pagare con questa forma di pagamento. L'unica cosa, l'unica accortezza, naturalmente il consumatore deve verificare che esposto, di solito ecco sulla porta del negozio viene esposto il cartellino col quale si dice che è possibile il pagamento con la carta di credito, cioè proprio il simbolo dell'American Express piuttosto che della Visa piuttosto che di altre forme di pagamento, certo. Quindi assolutamente no. Ecco, insomma, bisogna insistere anche un pochino se magari il commerciante tenta di non accettare lo strumento elettronico di pagamento. Se ha però appunto esposto in vetrina, come dicevamo, l'adesivo che indica che c'è la possibilità di pagamento, non si può sottrarre. Il cambio della merce, il diritto di recesso, è vero che in fase di saldo il commerciante si può rifiutare appunto di cambiare un capo se dovessimo tornare indietro perché abbiamo deciso che non ci piace una camicia o un pantalone? Così non è. Allora, i capi svendita, il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso, quindi attenzione, anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare. Se il cambio non è possibile, perché il prodotto è finito, hanno diritto alla restituzione dei soldi, o meglio, prima la sostituzione del prodotto, se il capo non è finito, in questo caso hanno diritto alla restituzione del denaro e non hanno un buono, perché molto spesso accade che i commercianti lo sostituiscano con un buono, quindi dando al consumatore un buono, ma così non è. Il commerciante è obbligato alla restituzione del denaro. Naturalmente, tengo a precisare, deve trattarsi di merce difettosa. Certo, però appunto l'ho precisato appositamente all'inizio, non è che se appunto andiamo a comprare qualcosa durante i saldi, ci proviamo un capo che magari nel negozio ci piace, poi torniamo a casa, ci ripensiamo, ecco, se è difettoso abbiamo tutto il diritto ad esercitare il nostro diritto del recesso dall'acquisto. In caso contrario, se invece una nostra una presa di posizione inutile ed infantile, allora è chiaro che non possiamo chiedere al commerciante di farci questo cambio. Massoletti voleva aggiungere qualcosa su questi aspetti, poi andremo alla lettura appunto della mail della mamma che ci ha scritto. Ma guardi, io devo dire che moltissime imprese in Italia aderiscono a delle campagne che sono quelle dei saldi chiari, saldi trasparenti, esatto. Saldi tranquilli, hanno diversi nomi, queste campagne che sono promosse dalla nostra associazione, e all'interno di queste campagne il sottoscrittore, cioè il negoziante, è tenuto a rispettare un decalogo preciso che prevede appunto l'obbligatorietà del cambio qualora si tratti di merce difettosa, ma evidentemente qualora non si tratti di merce difettosa è facoltà dell'imprenditore commerciale quella di fare o meno, diciamo così, il cambio. Teniamo conto di una cosa, che essendo una vendita a prezzo vantaggioso, evidentemente un consumatore non può pensare e non può pretendere che il commerciante faccia un servizio come se il prezzo fosse un prezzo pieno. Si tratta evidentemente di accettare un servizio ridotto, perciò magari anche un packaging meno prestigioso di quello che normalmente viene usato al negozio, oppure anche un servizio magari un po' più frettoloso e meno accurato. Certo, Massoletti, sente, invece la prassi di invece di restituire il contante qualora appunto si abbia il diritto di a ricevere questa restituzione, invece del contante il buono per rifare un altro acquisto, è una prassi diffusa ed è corretta? Ma guardi, il buono lo si dà per favorire il consumatore qualora per esempio non riesca a trovare, nel caso il capo non sia difettoso e voglia comunque cambiarlo, spesso il negoziante per accontentare il consumatore del buono dice vabbè, insomma, lo spenderai quando troverai qualcosa che ti piace, ecco, ma nel caso della difettosità, del difetto, il capo va sicuramente o riparato se non è possibile, sostituito, oppure se non è possibile il denaro deve essere restituito, però nel caso di capo difettoso. Certamente. Salvadanaio. Ci sono alcuni consigli, pochi ma importanti, che è sempre bene tenere a mente quando si va in giro per saldi. Va ricordato che la possibilità di cambiare il capo non è scontata, ma a discrezione del negoziante. Diventa però obbligatoria la sostituzione o la riparazione nel caso in cui venga riscontrato un danno o un difetto nel prodotto. Non è quindi del tutto vero che i capi in saldo non possono mai essere cambiati e quindi è sempre importante conservare lo scontrino. Anche la prova dei capi è a discrezione del negoziante, non la si può quindi pretendere. Abbiamo ribadito Abbiamo a Peter qua che non mi abbassa, non mi vuol far parlare stamattina. Abbiamo ribadito nella nostra piccola scheda i consigli che avevamo già indicato nella prima parte del programma, quindi li abbiamo rimarcati. Il tema di stamattina, lo avrete capito, è i saldi di stagione, come stanno andando, cosa state comprando, e chiaramente occhio anche alle offerte che trovate in giro. Ma siccome siamo sempre abituati quando facciamo questa trasmissione a prendercela con i commercianti, io vorrei anche un po' prendermela invece con quei consumatori che quando vanno in giro non sanno mai quello che vogliono e chiaramente hanno anche delle pretese abbastanza spesso eccessive, insomma, con i commercianti. Siccome c'era una considerazione del genere da parte di un'ascoltatrice, adesso vediamo se Marco riesce a recuperarla. E sì, è Ivana da Arezzo e ce l'abbiamo subito. Ivana, buongiorno. Buongiorno, infatti io volevo confermare quello che ha detto, che non tutti i clienti sono uguali, come tutti i commercianti non siamo uguali. Io sono una commerciante e difendo la mia categoria. Purtroppo capita che anche il cliente che ti viene compra l'articolo, il giorno dopo viene a cambiarlo, il giorno dopo ritorna a cambiarlo e via. Magari lo mette, lo porta, lo mette un'ora e dopo fa la passeggiatina e tutto. È capitato anche di queste anche cose. Sì. Io con la mia esperienza ormai trentennale, ultra 45 anni che sono nel commercio, perciò ne ho tutte di cotte di crude. Ivana, allora, come stanno? No, le volevo chiedere come stanno andando le cose intanto. Male, male. Malissimo, e purtroppo tutta questa colpa dei commercianti e tutto non è niente vero, anzi direi che sarebbe meglio dare anche un pochino più di spinta a questa categoria che sta soffrendo molto e che purtroppo il nostro lavoro si ripercuote poi di conseguenza sull'industria e sul posto certo, di lavoro. È ovvio. E noi non vendiamo, non compriamo e di conseguenza allora sarebbe meglio tutti di fare una politica un pochino migliore, secondo me, perché non è vero che tutti i commercianti sono là. I commercianti oggi lavorano soltanto per pagare le tasse, perché sa benissimo su ogni 100 euro 70 le vuole lo Stato. Lei mi deve dire noi in che condizioni le rimanenze e tutto, perciò tutto questo sta cosa dei vecchi commercianti sarebbe l'ora di farla finita. Ivana, sa com'è? Perché... No, ma assolutamente, noi vi rispettiamo profondamente e ci mancherebbe altro, siete il primo test fondamentale per così monitorare come va l'economia, perché i consumi sono il primo elemento che si guarda proprio per verificare lo stato di salute economico di un paese. L'elemento più importante, negli Stati Uniti la spesa per consumi viene monitorata con ossessione, il tema è, giustamente diceva Ivana, fate qualcosa per aiutarci, il tema è mettere un po' di soldini in più nelle tasche delle famiglie. Insomma, questa è una crisi abbastanza importante. Massoletti, le volevo chiedere di commentare come hanno deciso appunto di affrontarla nelle prossime settimane i commercianti di Milano, che hanno deciso in molti di rinunciare loro stessi alle loro ferie e hanno deciso di mantenere molti negozi aperti, molte vetrine resteranno aperte anche ad agosto a Milano. A Milano forse ha un senso, qualche turista arriva, ma certo che nelle altre città d'Italia una decisione del genere è molto più difficile da prendere. Ma guardi, ha molto a che fare anche con le nuove modalità di consumo relativamente al settore turistico. Una volta si faceva le vacanze scolastiche, chiuse le scuole, si parte, si va in vacanza, chi fa il mese di luglio, fa il mese di agosto, e le famiglie stanno veramente molto distanti da casa per lunghi periodi. Adesso invece le vacanze sono cambiate, si fanno vacanze più brevi, magari si ripetono più volte nel corso dell'anno, e questo porta le città a essere un pochettino più popolate anche in periodi come quelli del mese di agosto, in cui tradizionalmente eravamo abituati a vederle tutte deserte. Ecco, pertanto ha un senso, direi, ha una logica questa apertura extra dei negozi nel mese di agosto, proprio perché la popolazione tende, diciamo, avendo cambiato il modo del consumo da vacanze, tende a esserci nel mese di agosto. Perciò è giusto promuovere questo servizio. Certamente. Allora, le leggo intanto quello che è capitato ad Ilenia, questa mamma che ci scrive, è stata la prima a scriverci stamattina, e ci chiede di accendere un faro sul comportamento di una nota marca di abbigliamento e scarpe sportivi presenti in una catena di negozi nei centri commerciali. Lei ritiene appunto che stia facendo un'azione poco chiara. Questo negozio è frequentato da questa mamma con grande assiduità, visto che compra vestiario, appunto, come dicevo prima, per i figli. Durante tutto l'anno hanno una promozione, per cui due t-shirt costano 29 euro. In questo periodo le stesse magliette sono esposte con un cartello: costo originale 35 euro, sconto del 25%, prezzo finale 29 euro. E quindi in pratica per tutto l'anno queste magliette vengono pagate allo stesso prezzo, ma adesso sembra che vengano scontate come saldo. Questa mamma ha fatto presente giustamente la cosa, le è stato risposto che non c'è da nessuna parte la scritta saldo, quindi sono in regola con la legge. Peccato che durante l'anno, appunto, ribadisce Ilenia, le stesse magliette costino 29 euro. Che ne pensa? Anche questa è una prassi non dico diffusissima, perché non è così, però insomma capita. Massoletti. Sì, ecco, quando capita è giusto, come dire, lasciare lì la merce, perché è l'unico modo con cui Non solo, ma io credo che questa mamma, visto che è una assidua cliente di questo negozio, non lo sarà più nel futuro, pertanto questi signori hanno fatto male i loro calcoli, perché per, diciamo così, speculare qualche euro su una promozione, direi anche fatta in maniera abbastanza ingenua, tutto sommato, che è piuttosto evidente, diciamo così, la mancanza di trasparenza, ecco, rischiano di perdere una cliente che nel corso dell'anno avrebbe comunque fatto, certo, acquisti, ed è un po', secondo me, anche la stessa considerazione che si può fare quando commentiamo il comportamento di quei commercianti, appunto, che espongono, come lamentano gli ascoltatori, la merce di anni passati o di molti anni indietro. Voglio dire, se evidentemente c'è anche mercato per questa merce, Massoletti, adesso non è che la mettono lì tanto per il gusto di tenerla esposta, evidentemente magari qualcuno che la chiede, che non ha nessuna tipo di affezione, diciamo, che non è magari persone del tutto interessate ai trend della moda, e che comprano anche delle cose ad un prezzo molto basso degli anni passati. Voglio dire, non è così? Sì, ma certo, ma magari proprio quando si tratta poi di prodotti di alto livello, spesso il prodotto cosiddetto vecchio, quello di qualche anno prima, diventa un prodotto vintage, pertanto ancor più ricercato da un certo sì, punto di vista. Come stanno andando le cose di recente. Sì, sì. Capita che i consumatori riescano a fare degli ottimi affari su prodotti di grande marca o di grande prestigio, acquistati a prezzi bassi, il tutto deve essere fatto in estrema trasparenza. Infatti, se non ci fosse nessun mercato, i commercianti non lo farebbero, ritengo, quindi evidentemente. Un po' di giro c'è lì anche. Vorrei sentire Giuseppe da Bergamo, che ritorna sul tema appena affrontato, insomma, i cartelli con i prezzi e gli sconti non troppo chiari. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda. Io volevo sapere se esistono delle regole precise in merito all'esposizione dei prezzi e degli sconti. Sì. Mi spiego, sono andato in un negozio di un noto centro commerciale della mia città e in pratica ho notato che hanno sostituito tutti i cartellini dei prezzi dei capi originali con dei cartellini scritti a mano, con il prezzo originale scritto a mano prezzo scontato. Lei dice, e chi me lo dice? Su migliaia di capi, un lavoro in mano, mi sembra una cosa strana, mi sorge il dubbio che abbiano fatto qualcosa di strano. No, è che comunque magari chiaramente si ritocchi un po' il prezzo originario verso l'alto, per poi appunto magari applicare lì uno sconto che in apparenza sembra elevatissimo, ma che in realtà non lo è. Avvocato Lo Iacono, che mi dice di questo? Sì, no, non volevo intervenire anche per quanto riguarda il resto, perché sicuramente allora una politica di queste vicende, purtroppo ce ne sono anche, insomma, spessissimo, quindi è a tutela non solo dei consumatori ma anche degli stessi commercianti, che se viene svolta comunque una politica chiara e trasparente naturalmente va a vantaggio di tutto. Queste situazioni purtroppo, come il caso delle magliette, naturalmente portano il consumatore in qualche maniera a scoraggiarlo e non incentivarlo nell'acquisto dei prodotti, quindi ecco perché si raccomanda, almeno sia consumatori naturalmente, di avere un comportamento corretto nei riguardi dei commercianti, ma gli stessi commercianti di adottare una politica chiara. Anche per quanto riguarda adesso il cartellino, deve essere indicato obbligatoriamente in modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo, il valore di percentuale di sconto. Quindi queste strambizzarrie dove si trovano, ecco, anche prezzi scritti a mano, diciamo che non in qualche maniera esortano il consumatore a tenere gli occhi aperti e in qualche maniera a verificare anche con altri rivenditori la correttezza la bontà di quel prezzo e della percentuale di sconto applicata. Andiamo a Tommaso da Treviso adesso. Tommaso, buongiorno. Che ha preso dei bei scarponcini in saldo? Buongiorno, sì. Ecco. Io ho preso degli scarponcini in saldo. Dopo un mese e mezzo hanno avuto un problema di scollatura della suola. Li ho riportati indietro e, non avendone da sostituire, mi hanno dato un buono. Ovviamente il buono aveva l'importo dello scarponcino scontato, non del prezzo originale. Pieno. Le hanno dato quello che lei ha speso, Tommaso. Come? Le hanno ridato sostanzialmente quello che lei ha speso, cioè le hanno dato l'opportunità di spendere la stessa cifra, ecco. Esatto, e quindi io, avendo bisogno però di quegli scarponi, con la stagione nuova dovrò aggiungere il prezzo. Tommaso, sì, capisco perfettamente. Allora, Massoletti? questo caso purtroppo se il capo non è riparabile o non è sostituibile, evidentemente deve essere o proposto il buono, se il consumatore accetta o restituito il denaro. Su questo la norma è molto chiara ed è una delle cose sulle quali noi chiediamo ai nostri imprenditori, certo, il massimo impegno, insomma, perché è anche una questione di garantire ai consumatori rispetto a quello che acquistano. Mm-hmm. Allora, che cosa succede adesso? Sono le 12:44, possiamo già andare ai nostri suggerimenti per chi è in viaggio e poi continueremo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori. C'è addirittura Daniela che a Viareggio fa dei gran complimenti ad un paio di commercianti del suo posto, perché appunto evidentemente la proposta del saldo è stata fatta in grande trasparenza. Adesso cerco di leggere bene perché non capisco in realtà se è ironica, Daniela. Adesso ve lo racconto dopo la nostra pausa. Salva Danaio. Fate attenzione ai finti saldi. Quelli veri si dovrebbero applicare su capi della stagione che sta finendo e non su resti di magazzino. Per questo è meglio rivolgersi ai negozi che si conoscono, di fiducia, e di fidare degli sconti superiori al 50%. Evitate poi di acquistare prodotti senza etichetta. Controllate che vengano sempre indicati il prezzo di partenza del capo, quello scontato e il valore in percentuale dello sconto. Si può pagare con carta o bancomat solo se il negozio espone l'apposito adesivo. Meglio diffidare degli esercizi che indicano gli sconti in modo generico e di quelli che nascondono le vetrine con grandi adesivi. Ecco, volevo proprio commentare il comportamento di questi ultimi. È fondamentale, dicono le associazioni dei consumatori, di fidare di quei negozi che coprono le vetrine con dei manifesti enormi e non permettono di vedere la merce esposta e che risultano poco chiari. Ma Massoletti, i negozi hanno l'obbligo di mettere tutto in vetrina? Magari, non lo so, se vogliono così, proprio per un proprio gusto estetico, mettere un manifesto o coprire la vetrina ed invitare il cliente ad entrare per vedere la merce dentro è così proprio scorretto il manifestone? Ma no, io guardi, su questa cosa qui non sono assolutamente d'accordo con questa indicazione, perché un negozio, spesso quando si tratta di merce di saldi, prima di tutto l'assortimento magari è molto ridotto, nel senso che c'è un capo per taglia, eccetera. Non si può esporre un capo in vetrina per poi invitare dentro un consumatore e dirgli no, guardi, l'ultimo capo è quello proprio in vetrina e pertanto la taglia che lei cerca non c'è. E perciò, diciamo così, questa cosa di chiudere le vetrine ha anche un senso di dire vieni dentro a vedere il mio assortimento in modo tale che scegli direttamente il capo per te, proprio perché ce ne sono uno. E non c'è un assortimento completo, anzi direi che forse tutto sommato è un segnale proprio invece di trasparenza, di dire non ti posso mettere i capi in vetrina perché non ne ho abbastanza da proporzionare. Anche perché sennò ci vorrebbe una vetrina lunga a chilometri, quindi ecco, questo forse è un aspetto sul quale si potrebbe essere anche un po' più morbidi nei confronti dei commercianti. Avvocato Lo Iacono. Però sempre con consapevolezza, mi spiego meglio, mettere un cartello che comunque sia occulto in qualche maniera potrebbe trarlo in inganno il consumatore, ripeto, non, bisogna trovare sempre un punto di equilibrio, quindi senz'altro, perché magari ecco, vengono messi questi manifesti con sconti anche improbabili e poi magari il consumatore entra all'interno del negozio e trova che in realtà gli sconti esce, che fa? Non compra, pazienza, è chiaro che ognuno utilizza gli stratagemmi commerciali che meglio Devono essere sempre equilibrati e non devono mettere in inganno, perché altrimenti, insomma, voglio dire, il commerciante poi dopo in qualche maniera viene anche disincentivato. Se io ogni negozio che comunque visiono trovo dei manifesti che mi traggono in inganno, ripeto, anche questo va a discapito anche dei commercianti, certo, non solo del consumatore in sé per sé. Senta, poi, vi faccio quello che fa girare l'economia è quello che acquista, certo. Quindi in qualche maniera ci deve essere un minimo di tutela anche dei loro riguardi, benissimo incentivarlo, benissimo persuaderlo, ma sempre con strumenti che sono idonei, a mio avviso. Intanto volevo segnalare alla nostra Daniela di Viareggio che non riesco a capire appunto il tenore del suo messaggio. Voglio elogiare due negozi, uno di abbigliamento e uno di calzatura a Viareggio, che dice che in saldo era prima visibile a prezzo pieno, grande stile. Daniela, non capisco il senso, lei mi ha confermato che non era ironica, me lo precisi, così lo leggo volentieri. Andiamo però a Gianni dalla provincia di Mantova, che invece ce l'ha un po' con i suoi colleghi di categoria. Buongiorno. Buongiorno a tutti, sì, volevo dire che per noi i saldi, noi abbiamo 5 negozi, i saldi rispetto al 2012 stanno andando molto meglio, insomma. Ah, addirittura, ci dica un po', qual è il segreto? il segreto per noi è intanto è combattere i centri commerciali non solo a parole ma anche a fatti con orario continuato e poi con piena disponibilità. Cioè se il cliente viene col vestito indietro ed è palese che non è la taglia sbagliata, non gli piace più, noi lo sostituiamo anche con altra merce. Cioè ha speso dei soldi, siamo in crisi, vuole invece del vestito qualcosa d'altro. Volentieri certo. Lo facciamo, insomma, io penso che sia questo. Le racconto un aneddoto che riguarda un negozio che c'era in una località turistica. Che è successo? Fuori c'erano dei cartelli, in questo negozio era proibito entrare con bambini, cani, certo. Cibo, bevande, siamo in una località turistica. Mamma mia. Hanno i gelati in mano, cioè se un vestito si sporca... butta in lavatrice. Sì, vabbè, ma poi non è che ci sarà la gara a buttare gelati sui vestiti di quel negozio. Esatto, adesso, Io dico capiterà una volta, ma secondo lei e secondo gli ascoltatori questo negozio è ancora aperto? Boh, che ne so Gianni, è aperto? No, non è più aperto, vabbè. È chiaro. Perché ecco, diciamo che proprio lo spirito del commerciante non c'era in quella persona che teneva quel negozio, lei invece Gianni mi sembra che abbia proprio una cultura del suo lavoro e un'attenzione a come lo fa molto, sì, molto alta. A parole, diciamo che i nostri clienti sono i nostri datori di lavoro e deve essere così. Certamente. Gianni, complimenti, grazie. E insomma, Massoletti ha sentito, ci ha raccontato anche una cosa interessante. A lui gli affari vanno addirittura meglio dell'anno scorso, proprio perché ha puntato tutto sulla qualità del servizio che rende ai suoi clienti. Certo, beh, direi che questa è sicuramente un'ottima mossa e mette in condizione molte imprese di crescere. Voglio ritornare un attimo alle statistiche che ho così dato all'inizio. In realtà il calo riguarda il 60% delle imprese commerciali, un 40% delle imprese commerciali invece stanno facendo meglio dell'anno scorso. Questo significa che probabilmente la qualità del servizio fa la differenza. Pertanto, è un po' nella logica di quello che ci siamo detti. Esattamente. E intanto qua vedo che invece si è infilato al volo Giuseppe da Carrara che scrive: ma se praticano uno sconto del 70%, ritorniamo a queste percentuali che chiaramente non sono poi così diffuse, quanto pagano la merce che vendono? A voi ogni considerazione. È anche vero, Giuseppe, che magari un commerciante quando deve liberare il suo negozio per far spazio alle vetrine della stagione successiva deve per forza, non è che può affittarsi un altro magazzino per mettere tutte queste cose. Qualche volta è meglio, Massoletti, andarci in perdita ma liberare il locale. Sì, il 70% di sconto sicuramente mette in condizione il commerciante di recuperare solo una piccola parte di quanto ha speso. Certo che l'operazione finanziaria non la si fa su un capo solo, la si fa su una serie intera o su un numero di capi molto più importante. Perciò se io di una serie ho venduto a prezzo normale l'80% e mi resta solo il 20% di quel prodotto da mettere a saldo, anche se faccio uno sconto molto alto, in realtà io riesco comunque a remunerare la mia operazione, che è un'operazione finanziaria, alla fine, in modo tale da riuscire a tenere in equilibrio la mia attività. Ecco, anche se faccio uno sconto di questo tipo, a prescindere pertanto dal vero costo, dal vero valore del prodotto. Allora, ancora un paio di ascoltatori prima di salutarci. Abbiamo Alessandro da Modena, che non ho ben capito se il tema della sua domanda è allineato al programma di oggi, ma ci proviamo. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Grazie per aver chiamato. No, io ho sentito dire dai suoi ospiti prima che in caso di restituzione della merce, sì, per qualunque sia il motivo, il negoziante mi deve dare o un buono o eventualmente restituire la cifra spesa. Questo non succede mai negli ipermercati, nei posti, come mai? Cioè, e loro hanno questa possibilità. Ma in che tipo di articoli lei sta riferendosi? Qualunque che ne so. Sia abbigliamento gratuito. Questo non lo so, proviamo a sentire dal tipo di articolo. Avvocato Lo Iacono, nei centri come nei supermercati funziona diversamente perché anche lì adesso vendono di tutto, anche di abbigliamento. Tutto. No, assolutamente no, la prerogativa è sempre questa. Naturalmente, ripeto, se il merce in saldo deve trattarsi di un prodotto difettoso, perché altrimenti è una mera facoltà, quindi ripeto, o la restituzione del denaro o altrimenti in alternativa un buono che naturalmente riporterà il valore del prezzo in qualche maniera. E quindi insomma, ovviamente non può essere essere superiore, perché altrimenti insomma sarebbe insomma un po' però mi pare strano. Adesso bisognerebbe andare un po' più nel dettaglio per capire cos'è certo. Capitato ad Alessandro, perché anzi in genere i supermercati si può andare indietro anche con la mozzarella dopo due giorni lamentandosi del fatto che è rovinata. Infatti. E la riprendono al volo, quindi ecco, per l'abbigliamento non so bene come si comporti. Non ce la facciamo a sentire anche Roberto da Genova, che conclude in bellezza. Non ce la facciamo, Roberto voleva difendere i commercianti, non è assolutamente vero, dice che sono tutti lazzaroni. Roberto, ma ci mancherebbe altro, non l'abbiamo detto, anzi tutta la nostra solidarietà a tutti coloro che in questo momento sono in difficoltà e che approfitteranno anche dell'estate per tenere i negozi aperti, quindi non solo la famiglia tradizionale rinuncia alla vacanza, ma anche quella dei commercianti. Nonostante appunto voi pensiate di trovare tutte le città tristi e smorte appunto ad agosto, quest'anno invece saranno un po' più vivaci, perché i negozianti hanno deciso di mantenere le attività aperte. Grazie a Carlo Massoletti per la sua collaborazione per la puntata di oggi, buona giornata. Saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie anche all'avvocato Lo Iacono per essere stato con noi. Movimento Difesa dei Cittadini, vi ricordo l'iniziativa del Movimento Difesa dei Cittadini Pronto Saldi 2013. Anzi, al volo, prima di salutarci, do anche il numero di telefono a cui chiamare se siete scontenti di come avete approcciato ai saldi quest'anno: 06 488 1891. Avvocato Lo Iacono, arrivederci. Arrivederci e saluto a tutti. È tutto, a domani.